E benvenuti, bentornati a questa piccola parentesi elettronica all'interno della programmazione di Yesta Radio. Questa è Back to the Future, io sono Back. E ovviamente potete trovarmi anche su radiopazza.blogspot.com. Nella puntata di oggi, che andrà poi in replica per tutto il mese, e ascolteremo insomma dei pezzi molto elettronici questa volta. E per darvi un assaggino della voglia di sperimentare che troviamo nel nostro paese, sempre ovviamente tutto Creative Commons in questa trasmissione, quindi libero da vincoli SIAE, vi faccio ascoltare i Sicilian AV Project. Sentite qua. Straordinariamente visionario questo pezzo degli Sicilian Audio Video Project. Non so, interessante perché attraverso una registrazione di un suono, ecco, diciamo, antico, che ci ricorda tempi remoti in cui magari si comunicava così per strada con una voce per richiamare l'attenzione di un villaggio o di una piccola cittadina. E oggi invece siamo così, siamo in contatto attraverso dei cavi, dei fili, a distanza, una tele, tra virgolette, comunicazione. Chissà, magari una visione del futuro così, in cui si torna ancora sotto il controllo militare e sotto il coprifuoco digitale. Beh, la cosa spaventa abbastanza. E per chi ha manie di grandezza, lascio questo pezzo in dedica. King for a day, dei I Am This, un gruppo che abbiamo già ascoltato una volta e che vi ripropongo ancora. Oggi abbiamo dei serissimi problemi con il microfono, però mi piace anche il modo in cui l'errore si inserisce ovunque, cercando di permeare ogni cosa che io cerchi di fare. E quindi ho deciso di non cancellare le registrazioni precedenti, anche per mantenere un po' questo clima di incertezza e instabilità. Oggi ho una vena filosofica abbastanza sviluppata, ecco. quindi per farci due risate, magari vi faccio ascoltare un brano dal titolo abbastanza strano, Cat Song, canzone del gatto. Ma quello che è ancora più strano è il nome del gruppo, Pea-sized, cioè a dimensione di pisellino. Pisellino inteso come legume. Eccolo a voi. Cat Song. Non so voi, io sono sempre più impressionato dalla eccellente qualità musicale che si può trovare sotto licenza Creative Commons su internet. Io in particolare traggo ispirazione da Jamendo.com, che è un portale di musica open source esclusivamente dedicato alla musica. Però ci sono tantissime altre fonti, posso citare ad esempio archive.org, quindi www.archive, scritto chive.org, dove potete trovare un'infinità di file multimediali, dal testo a filmati a film, a concerti live, interviste, qualsiasi cosa vi possa interessare, tutto registrato sotto l'egide del Creative Commons. E quindi, oltre ad una piccola guida su come trovare materiale gratuito su internet, Back to the Future vuole anche essere una dedica d'amore alla musica elettronica. E quindi il prossimo pezzo magari esprimerà in maniera eccellente questo mio sentimento verso i suoni generati dai transistors. Questi sono i Transient, non so se già li abbiamo programmati su Back to the Future perché non ho qui sotto gli occhi le vecchie playlist. Il loro pezzo si intitola Exits. Thank you. un'altra delle mete che mi sono prefisso con questa trasmissione radiofonica, con questo podcast, è quella di farvi innamorare sempre di più della musica elettronica, in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni, anche quelle più trasversali, come ad esempio il suo utilizzo in altri generi. Però che succede quando gli altri generi vengono utilizzati nella musica elettronica? Ebbene, vi faccio ascoltare questo brano dei Kesaku, Failure, che secondo me è, come dire, molto celebralizzato. D'altronde la musica elettronica ha questa caratteristica, quella di colpire al cuore attraverso la mente, forse anche stancandola, chissà. Questi sono i Kesaku con Failure. Thank you. Quindi ora un po' per accentuare i contrasti e un po' perché ho anche voglia di cambiare, di ascoltare qualcosa di diverso anche sotto forma di genere, però ecco, invertendo l'equazione è arrivato il momento di ascoltare l'utilizzo della musica elettronica in un genere più comune, che magari può essere quello pop. Pop e anche magari vagamente etnico, insomma, che ci ricorda la musica di Manu Chao, però ecco, risuonata con strumenti anche elettronici. Questo gruppo è molto originale, loro sono francesi, giustamente, insomma, visto che jamendo.com è francese, è un sito web che è nato in Francia, un'idea francese. E quindi i Drunk Souls ci fanno ascoltare questa canzone Comme Louise et Thelma, cioè come Thelma e Louise. Confesso di non aver letto il testo, quindi non conosco bene il contenuto di questa canzone, però mi piace e quindi ve la faccio ascoltare. Drunk Souls, Comme Louise et Thelma. Sul reggae, questo genere nato in Giamaica dalle origini africane, e poi c'è poco comunque da dire sulla musica, c'è poco da commentare, è un po' un sacrilegio, una bestemmia quella di parlare della musica o sulla musica anche. Quindi confesso di essere reo. Però ecco, è una passione, è un divertimento, è un hobby e in certi casi è anche un buon lavoro quello di fare lo speaker radiofonico. Nel mio caso mi confesso reo e proseguo diabolicamente perché perseverare è diabolico. Io persevero nel mio Back to the Future e con questo pezzo che segue, sempre per rimanere nell'ambito del francesismo, il titolo è Monsieur Chagall e il gruppo è Boom Boom Beckett. Thank you. artisti che avete appena ascoltato erano i Boom Boom Beckett con il loro pezzo Monsieur Chagall, un pezzo devo dire diabolicamente jazz. E vorrei ricordarvi che all'interno dei post che troverete su radiopanza.blogspot.com ci sono tutti i collegamenti alle pagine di Giamendo per potersi scaricare o comunque conoscere meglio i brani che ascoltate qui su Back to the Future. Ovviamente poi noi, o almeno io, ecco, ormai parlo in pluralis majestatis, la mia megalomania è salita a vertici inauditi. Dicevo, ovviamente non mi voglio limitare esclusivamente a musica che proviene da giamendo.com, ci saranno altre occasioni in cui magari vi farò ascoltare musica da altre fonti, però sempre Creative Commons o comunque open source in qualche maniera. Quindi per andare avanti ho scelto per voi un pezzo dei Cyber Dread, Kitty Com. We'll be right back. Sempre più diabolicamente si intersecano i generi musicali del passato e del futuro qui su Back to the Future, il terzo appuntamento di questa serie di quest'anno. E soprattutto siamo veramente influenzati tutti quanti dalle temperature afose africane che questo luglio ci sta attaccando sulla pelle. Non so voi, ma io ne risento tantissimo. Magari si potrà anche notare dalla programmazione di Back to the Future, che sta cambiando, si sta trasformando, sta cambiando pelle, si sta spellando, sta tirando fuori ciò che ha sotto. E quindi, per farvi scoprire altri modi di rimescolare e di utilizzare i suoni elettronici, ho deciso di proporvi un gruppo argentino sospetto, credo. Questi sono gli Entripao, cioè gli intrippati, coloro che subiscono un trip. E il loro pezzo si intitola Perros, cani. Las ideas viajan si la energía es buena. que luego llueven alegrías. Piensa bien, piensa bien, que luego llueven alegrías, alegrías. Piensa bien, piensa bien, que luego llueven alegrías, alegrías. Piensa bien, siente bien, que luego llueven alegrías, alegrías. Piensa bien, siente bien, que luego llueven alegrías, alegrías, alegrías. Carissimi e pazienti amici, siamo arrivati alla conclusione di questa terza puntata di Back to the Future. Abbiamo viaggiato per tutto il mondo, fra Europa e Americhe. Abbiamo ascoltato musica dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia soprattutto, dalla Sicilia. Abbiamo ascoltato anche musica dall'Argentina, ora non solo gli Stati Uniti, ma vogliamo ascoltare qualcosa anche dal Messico. Ovviamente, apro parentesi, potete sapere l'origine geografica del gruppo che state ascoltando visitando le singole pagine delle tracks presentate qui su Back to the Future. Le trovate su radiopazza.blogspot.com all'interno del post dedicato a questo episodio. Ci sono i collegamenti diretti alle pagine di Jamendo, dove c'è una piccola bandierina che vi indicherà da quale parte del mondo proviene la musica che state ascoltando. Ebbene, il prossimo artista è messicano, lui è Vate, e il pezzo si intitola Idolos Pop, una interessantissima sperimentazione che contiene dentro di sé un messaggio orwelliano, forse. Tutti vogliamo essere degli idoli pop, e la domanda che io mi pongo è: perché? Carenza d'affetto, forse? Chissà. Ci sentiamo fra una trentina di giorni. Ciao a tutti. Todos queremos ser ídolos pop, todos podemos ser ídolos pop, todos debemos ser ídolos pop. Tú, todos queremos.